Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Aprirei la puntata con una considerazione, anzi con una domanda: in che misura i media, la stampa, i giornalisti hanno il diritto di entrare nella vita privata di un personaggio pubblico e soprattutto come va giudicato il personaggio pubblico? Solo per quello che esprime sul palcoscenico, sullo schermo o in sala di incisione, oppure bisogna interessarsi a lui anche e magari giudicarlo anche quando i riflettori sono spenti? Forse a volte succede che l'ingerenza nel privato è inversamente proporzionale al valore artistico. Oggi con i social chi non ha molto da dire artisticamente tende a farlo privatamente, e ci sono sempre più esempi di personaggi che sono molto più presenti sui giornali o nei siti di gossip più che nei loro ambiti. Anzi, ormai insomma la situazione è degenerata, ci sono persone che sono famose per il gossip ma che ancora non abbiamo capito bene che mestiere facciano. Comunque, oggi per approfondire questo argomento e invece per parlare però di un grande artista, vi raccontiamo la storia di un grande performer, un virtuoso del pianoforte che alcuni decenni fa è stato però anche al centro di un interesse mediatico continuo, persistente, morboso. Attirava l'attenzione su di sé anche per il suo stile kitsch, per i suoi abiti esagerati, per i suoi gioielli giganteschi, per i pianoforti dorati, e qui c'è un altro indizio, stiamo parlando di un pianista, per le Rolls Royce a stelle e strisce, insomma uno che aveva atteggiamenti molto ambigui sessualmente in anni in cui l'omosessualità era ben lontana dall'essere sdoganata. Era per questo bersagliato dalla stampa. Insomma, il protagonista di oggi è il grandissimo performer statunitense Liberace, che per un trentennio tra il 50 e il 70 è stato l'artista più pagato del mondo. When I was a teenager, we had a kind of a crazy thing going for us. I wonder how many of you remember the boogie woogie craze. Eh sì, Liberace era un vero virtuoso del pianoforte, ma era anche un grande showman, coinvolgeva il pubblico nei suoi numeri, le persone andavano a vederlo sapendo che lui li avrebbe fatti cantare, divertire, sognare, il pubblico americano lo adorava, ha decretato il successo stellare di molti suoi brani come il suo cavallo di battaglia I'll Be Seeing You. Vlazio Valentino Liberace nasce il 16 maggio del 1919 a Milwaukee, nel Wisconsin. La madre Frances è una ex attrice del teatro classico e di origine polacca. Il padre Salvatore è italiano di Formia. E infatti io dico Liberace con grande fierezza e disinvoltura. Il padre è un artigiano con la passione per la musica, suona il corno francese e accompagna i film del cinema muto. È proprio lui, il padre, che incoraggia il piccolo Valentino a avvicinarsi alla musica. Ha solo 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte. È evidente che ha un grandissimo talento naturale, tanto che i suoi lo iscrivono al conservatorio musicale del Wisconsin, dove lui applica le tecniche del grande pianista polacco Ignacy Paderewski, che era un suo contemporaneo. Anzi, la madre aveva lavorato per lui quando si trovava in Polonia, ma siamo negli anni ormai della Grande Depressione, così anche la famiglia Liberace sente la terribile crisi del 29. Insomma, anche il giovane Vlazio, o se preferite Valentino, deve iniziare a lavorare, suona nei matrimoni, poi in qualche radio locale, in qualche club e infine arriva ai primi piccoli teatri. Nel 34, a 15 anni, è già membro stabile di un gruppo jazz chiamato The Mixers. A 17 è il musicista fisso di una radio locale, diventa anche quello che mantiene il resto della famiglia: padre, madre, 3 fratelli. Il padre vorrebbe che lui continuasse la carriera classica, quella per cui lui ha studiato, ma lui non la pensa assolutamente così. Mi sono reso conto molto presto nella mia carriera che i pianisti di musica classica fanno un lavoro molto faticoso, serio, mentre io cercavo di divertirmi con il mio lavoro. Ero felice di suonare la musica classica, mi piaceva, ma le persone per le quali suonavo erano solo un piccolo gruppo ristretto di appassionati puristi e non erano il genere di persone che io volevo rendere felici. Io desideravo rendere felice la gente comune. I really long to please the man on the street. E lui è un artista eclettico, non solo suona meravigliosamente il pianoforte, non solo ha una voce straordinaria, ma è anche un grande pittore e poi è affascinato dalla moda. Così inizia a disegnare abiti molto stravaganti, sfarzosi, realizzati con broccati d'oro, inserti di pelliccia, strascichi luccicanti, insomma creazioni che sono il preludio delle sue scelte di immagine che negli anni successivi hanno caratterizzato la sua sfolgorante carriera. Il falco e il gabbiano. Ma anche se Liberace sta pensando a rivolgersi alla musica popolare o comunque alla gente, nel frattempo è molto apprezzato come pianista classico. A 20 anni debutta con la prestigiosa Chicago Symphony Orchestra al Pabst Theater di Milwaukee e suona il concerto per pianoforte numero 2 di Liszt e il 15 gennaio del 40 poi parte per un tour nel Midwest. Praticamente fa due lavori, perché nel frattempo suona anche nei club, nei locali notturni, alla radio, insomma comincia a creare delle perplessità nei dirigenti della Chicago Symphony Orchestra, che sono molto seri, insomma lui adotta degli pseudonimi, ne userà moltissimi nella sua carriera: Walter Busterkiss, Lee Liberace, Liberace Chief Rock, The Glitterman è diciamo forse era il più sintomatico. Poi succede qualcosa che determina in lui una scelta definitiva. Il padre abbandona la madre per un'altra donna. Liberace è attaccatissimo alla madre, vivrà con lei tutta la vita. Vederla soffrire è un dolore atroce che sfocia non solo nel rifiuto di frequentare il padre, ma anche di compiacere i suoi desiderata. Così nel 42 lui diventa definitivamente e per sempre Liberace, cantante, showman, intrattenitore del tutto unico, perché fa un genere particolare. Inventa un genere a metà strada tra il pop con un po' di classica e lo spettacolo vero e proprio, ma il tutto supportato da grande tecnica. Insomma, lui la definirà la musica classica senza le parti noiose. E nel 44 Liberace suona per la prima volta a Las Vegas, che diventerà la sua sede naturale, il posto principale nelle sue esibizioni. E qui sta cercando lui di dare una personalità speciale, unica alle sue performance. E così, ispirato da un film sulla vita di Chopin, inizia a portare in scena un candelabro, lo posiziona sul pianoforte e accende le candele prima di mettersi a suonare. Very frequently requested then, as it is today, in its entirety, the Chopin A flat major Polonaise. Questo è un rituale che diventerà subito e per sempre il suo marchio di fabbrica, anzi almeno uno dei marchi di fabbrica, perché lui comincia a lavorare molto sulla particolarità del suo personaggio e le sue performance diventano sempre più incredibili, spettacolari. Una delle prime follie che mette in pratica è acquistare un Grand Blüthner, che è un meraviglioso pianoforte tedesco. Poi però lui lo fa ricoprire interamente in foglia d'oro. È un'esagerazione, è un'ostentazione di lusso, di sfarzo, di ricchezza, che però affascina il pubblico americano, lo trasforma sempre di più in una star. Eh sì, lui sa molto bene che l'alone di divismo che riesce a creare attorno a sé sarà determinante per il suo successo. Mette in piedi una vera e propria macchina da pubblicità, si circonda di uno staff numerosissimo, tecnici, segretari, costumisti, e le sue esibizioni diventano mitiche in brevissimo tempo. Ancora prima di arrivare in un locale si parla di lui, i fan crescono in maniera esponenziale. Tra loro ci sono anche personaggi molto famosi, come per esempio il petroliere Paul Getty, che lo invita a suonare a una festa privata. I nightclub più prestigiosi di Hollywood, in particolare il Ciro's e il Mocambo, cominciano a fare gara per averlo, e lui si esibisce con davanti gente come Clark Gable, Gloria Swanson, Shirley Temple. Nel 50 arriva la sua consacrazione, perché suona davanti al presidente degli Stati Uniti Henry Truman nella East Room della Casa Bianca. E poi arriva il grandissimo successo di pubblico. Nel 52 c'è un colpo d'ala clamoroso, perché riesce a avere un programma televisivo tutto suo, The Liberace Show. Inizia la sua programmazione il 1 luglio del 52, 15 minuti solo, ma 15 minuti rivoluzionari. Practically since I began playing the piano, the most frequent request I receive is for this very well-known piano novelty. So I'd like to play it for you once again. Nola. Lo show è rivoluzionario anche perché sancisce un principio che diventerà chiave nella televisione, cioè Liberace parla alla telecamera invece di rivolgersi al pubblico presente. Questo scandalizza i responsabili del programma. Oggi sembrerebbe tutto scontato, ma nel 52 l'idea era che, essendoci del pubblico presente, la star dovesse comportarsi come se la telecamera non esistesse. L'intuizione di Liberace è geniale e rivoluzionerà la televisione degli anni a venire, anche perché, e per quante persone ci possono essere in uno studio, è evidente che a casa ce ne sono molte di più. E ha ragione lui, perché nel giro di poche puntate lo show ha un successo tale che viene mandato in onda in tutto il paese, 45 milioni di telespettatori americani. Lui riceve 2 Emmy Award e per la prima volta in vita sua Liberace diventa ricco. Molto ricco. Perché oltre ai favolosi introiti televisivi, i suoi show dal vivo diventano una miniera di guadagni. Nel 54 la sua esibizione al Madison Square Garden di New York gli frutta 140.000 bigliettoni. I concerti settimanali al Riviera Hotel e in Casino di Las Vegas gli vengono pagati $50.000. Si calcola che solo nel 55 lui abbia incassato $1 milione dai suoi spettacoli nel 55, e poi un altro $1 milione dalle sue apparizioni televisive. Poi ci sono i dischi che vanno a ruba, e ormai per la metà degli anni 50 negli Stati Uniti ci sono 200 fan club Liberace, con un totale di 250.000 iscritti. Questo successo, unito al suo stile che diventa sempre più kitsch, con abiti assurdi, pellicce stravaganti, anelli giganteschi, altri pianoforti, pietre preziose, Rolls Royce che lo portano direttamente in scena, è una cosa incredibile. Fa addirittura costruire in casa sua una piscina a forma di pianoforte. Insomma, tutto questo lo proietta ai vertici, ma non corrisponde a un favorevole giudizio dei critici musicali. La musica di Liberace deve essere servita con tutti i trucchetti di spettacolo disponibili. Forte più che mai, dolce più che mai, soprattutto sentimentale. Liberace è uno showman ricoperto di crema e ciliegie. Lui ricrea ogni composizione a propria immagine. Quando è troppo difficile, la semplifica. Quando è troppo semplice, la complica. La sua tecnica soffre di eccessi di sentimentalismo e di imbellettature, senza alcuna aderenza a quanto scritto sullo spartito. E insomma, è una vecchia storia, la diatriba tra la critica e il pubblico. Solo raramente nel mondo della musica i due poli sono andati a combaciare. Lui comunque, dall'alto dei suoi milioni guadagnati, se ne frega delle critiche negative. Lui sostiene di non essere un normale pianista classico, di essere un performer completo. Lui dice: io non do concerti, io metto in piedi uno spettacolo. E ha ragione lui. Riceve 10.000 lettere di fan alla settimana, la Cadillac lo sceglie come suo testimonial e lo ricopre d'oro. Diventa anche una icona gay. Elton John anni dopo dichiarerà che Liberace era il suo eroe, e ce ne siamo accorti. Proprio di questo, della sessualità non ben definita di Liberace e della sua vita privata, che dobbiamo parlare ancora, perché qui la sua vita privata e quella pubblica cominciano a intersecarsi pericolosamente. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Liberace, al secolo Vlazio Valentino Liberace, padre italiano, madre polacca, un attore, un pianista, un autore, un personaggio televisivo, un artista di music hall statunitense, più semplicemente un grande performer. Negli anni 50, 60 e 70 è l'artista più pagato del mondo e le sue esibizioni sono straordinarie, non solo per la sua grande bravura come pianista e anche per la sua bella voce, ma soprattutto per il grande show che costruisce attorno a sé: pianoforti ricoperti d'oro sui quali è sempre appoggiato il suo simbolo, l'enorme candelabro d'oro che lui accende prima di esibirsi. E poi ci sono gli abiti di scena incredibili, i completi di pelliccia, i gioielli giganteschi, le scenografie con le ballerine vestite di piume, di lustrini, le Rolls Royce sul palcoscenico. Insomma, un'immagine kitsch, molto kitsch, ma anche trasgressiva, che rivela un gusto per l'eccesso. E poi c'è la sua ambiguità sessuale, che lui pubblicamente non ha mai avuto il coraggio di ammettere. E siamo arrivati ai primi anni 50. Liberace ormai ha raggiunto una fama straordinaria, il suo show televisivo gli porta in soli 2 anni 7 milioni di dollari di introiti. Lui è amato dal pubblico perché ha fatto questa rivoluzione, cioè rivolgersi alla telecamera e non al pubblico in sala, e quindi la gente ha l'impressione che Liberace si stia esibendo nel salotto di casa sua, la cosiddetta ritualità domestica, la prossemica, come dicono oggi, uno stile colloquiale, semplice, familiare. E poi lui porta in trasmissione il fratello George, violinista e direttore d'orchestra, ma anche la madre, gli altri fratelli, ai quali si rivolge spesso facendoli inquadrare, parlando loro come se l'America diventasse improvvisamente una grande, meravigliosa famiglia allargata. Now, ladies and gentlemen, I've had the pleasure of introducing a lot of beautiful ladies on my show, but in my humble opinion, this is the most beautiful lady of all, and I'm a little prejudiced because she happens to be my mom. Signore e signori, nel mio programma ho il piacere di presentare spesso delle donne bellissime, ma nella mia modesta opinione, questa è la donna più bella di tutte. Ma sono un po' di parte, perché si tratta della mia mamma. Mia madre è bellissima, non vi pare? A casa nostra, a Milwaukee, abitavamo in un piccolo bungalow. C'era musica che veniva fuori da ogni stanza. C'era George che si esercitava col suo violino e io stavo al pianoforte. C'era una canzone che cantavo sempre. Te la ricordi, mamma? Ti piacerebbe sentirla? Penso di ricordarmela. Nel 1956 Liberace organizza la sua prima tournée all'estero. Prima va a Cuba, a La Habana, poi in Europa, a Londra, dove si esibisce con Nat King Cole, con Sammy Davis Jr., al London Palladium, in quella che è passata alla storia come la Royal Variety Performance, perché in mezzo al pubblico c'è la regina Elisabetta II. E negli anni successivi prosegue la sua sfolgorante carriera. E intanto lui è entrato in un vortice dal quale non può e non vuole uscire. I costumi diventano sempre più stravaganti, piume di struzzo, cappelli enormi, coreografie sempre più complesse, con ballerine, con animali sul palco. Insomma, questa passione per le attrezzature sceniche, per i costumi esagerati, lo portano addirittura a rischiare la vita. Pensate che questo episodio avviene in una data, ahimè, storica, il 22 novembre del 63, il giorno dell'assassinio del presidente Kennedy. Ascoltate il racconto di Liberace in un'intervista di molti anni dopo, siamo nell'86, e lui è ospite della mitica Oprah Winfrey. Well, I was stricken with an acute kidney failure. Ho avuto un blocco renale acuto la notte, dovrei dire il giorno, in cui fu assassinato il presidente Kennedy. Ed è quello che mi ha salvato. Ero a Pittsburgh e c'era una terribile tempesta di neve, per cui non potevo tornare al mio hotel dopo un concerto. Rimasi a dormire in camerino. Il camerino era appena stato ridipinto, pulita la moquette e soprattutto erano stati puliti a secco tutti i miei costumi. Per tutta la notte ho inalato i fumi del tetracloruro di carbonio. Il mio manager è venuto da me per dirmi che avevano sparato al presidente. Accesi la televisione e tutti pensavano che fossi disperato per l'assassinio. E lo ero. Ma avevo ben altri problemi. Mi hanno portato in ospedale con l'ambulanza e hanno scoperto che i miei reni non stavano funzionando a causa di questo tetracloruro di carbonio. Because of this carbon tetrachloride. Ma poi Liberace si riprende, torna a Las Vegas con uno show completamente rinnovato, si presenta con il nuovo soprannome di Mr. Showmanship, Mr. Intrattenimento, in questo spettacolo ovviamente multicolorato, eccessivo, lui ospita nuovi talenti, fa esordire una giovanissima Barbara Streisand e intanto comincia a diversificare la sua attività perché ha molti hobby, apre una catena di negozi di antiquariato a Beverly Hills, diversi ristoranti a Las Vegas, scrive libri di cucina, tra i quali il bestseller Liberace Cooks, dove insegna la sua esclusiva ricetta, la Liberace Lasagna. Poi partecipa alla serie televisiva Batman, va al Muppet Show, gli viene assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame, realizza molti duetti con le star più famose dell'epoca, per esempio con la bellissima Eva Gabor, la sorella di Zaza Gabor, sua grande amica. Beh, noi fino adesso abbiamo raccontato una faccia della medaglia, la faccia luccicante, il successo, il trionfo, anche se magari accompagnati da un po' di eccessi dal punto di vista scenico. In realtà c'è un'altra esistenza di Liberace, un'esistenza che lui vive in maniera segreta, un segreto che non è tanto segreto, ma lui non ne parla mai, però è omosessuale, cerca disperatamente di tenerlo nascosto. Stiamo parlando degli Stati Uniti degli anni 50, 60, 70, e non solo non si parla di queste cose, ma in alcuni stati l'omosessualità è considerata illegale, una violazione della legge, si va in galera per l'omosessualità. Lui deve difendere se stesso, la sua carriera, non è sempre facile. Nel 56, in un articolo sul Daily Mirror, il famoso colonnista Cassandra, pseudonimo di William Connor, descrive Liberace così. Liberace è un incontro di sessi, pinnacolo di mascolinità, femminilità e neutralità. Qualunque cosa egli, ella o esso sia, è ok. Ammiccante, gioioso, coccoloso, cromato, impregnato di profumo, ridacchiante, coperto di frutta e di tanto amore materno. Beh, insomma, una diagnosi precisa, è evidente che tutto questo lo si può dire solo di un omosessuale, soprattutto l'espressione coperto di frutta, che nello slang americano significa proprio questo, omosessuale. Liberace risponde con un telegramma al giornale. Il telegramma dice: ciò che avete detto mi ha colpito molto negativamente. ho pianto tutta la strada verso la banca, scrive ironicamente. Poi fa causa al Daily Mirror per diffamazione e vince la causa. Però le voci sulla sua omosessualità continuano. Lui diventa il bersaglio preferito delle riviste scandalistiche come Confidential, che mette in copertina una sua foto sovrastata dal titolo. Ecco perché la canzone emblema di Liberace dovrebbe essere Pazzo per un ragazzo. Liberace si difende per oltre 3 decenni da queste insinuazioni, che poi insinuazioni non sono, non ammette mai la sua omosessualità, inventa relazioni fittizie con attrici, ballerine, con cantanti per confondere le acque, come molti divi americani omosessuali di quel periodo facevano. Però nell'82 scoppia la bomba. Il suo ex autista di limousine Scott Thornton, appena 22 anni, amante negli ultimi 5 anni di Liberace, lo cita in giudizio, gli chiede 100 milioni di dollari per essere stato abbandonato, licenziato, sedotto e abbandonato. Liberace, peraltro, aveva iniziato la sua relazione con Scott nel 76. Il ragazzo aveva solo 17 anni, lo aveva voluto con lui sul palco negli spettacoli, lo ricopriva di regali, organizzava feste faraoniche per lui, viaggi in giro per il mondo. Insomma, i testimoni della relazione erano tantissimi. Nonostante questo, Liberace continua a negare ossessivamente, nega la sua omosessualità e nega qualsiasi legame sessuale con Scott, parla di affetto paterno, risolve la causa col pagamento di 95.000 dollari, 3 macchine e 3 cani. L'ultima esibizione dal vivo è al Radio City Music Hall di New York il 2 novembre dell'86, l'ultima apparizione televisiva il giorno di Natale dello stesso anno al talk show di Oprah Winfrey. Poi Liberace muore, e muore per le complicazioni dell'AIDS che gli era stato diagnosticato 2 anni prima, ma che lui ovviamente aveva tenuto rigorosamente nascosto. È il 4 febbraio dell'87, Liberace ha 67 anni. Il 22 giugno Scott Thornton pubblica il suo libro Dietro i candelabri, La mia vita con Liberace, in cui racconta la storia d'amore con il grande showman, insomma una mossa forse più fatta per essere remunerati che non per raccontare, per liberarsi di un peso. Da questo libro nel 2013 Steven Soderbergh realizza un bellissimo film, Dietro i candelabri, che vede la sorprendente interpretazione di Michael Douglas nei panni di Liberace e quella di Matt Damon in quelli di Scott Thornton. Signore e signori, la star dello show, Mister Intrattenimento Liberace. Wow! Lui è il mio amico Scott Thornton. È la sua prima volta a Las Vegas. Lei è stato incredibile in scena. Sono fatto così. Io adoro far divertire la gente. Perché non viene a lavorare per me? Che faccio? Mi serve un compagno, una guardia del corpo, qualcuno con cui possa parlare. Di sì, Scott. Sei stato prezioso per me, Scott. Tu mi fai sentire così giovane. Scusami, ma non ce la faccio. Credo sia stato tutto uno sbaglio. Qui mi guardano tutti dall'alto in basso. Io non posso vivere in questo modo. Ti prego, non essere infelice. Non lo sopporto quando hai quella faccia. Soprattutto dopo quello che ho pagato. Nessuno mi è mai stato più vicino di questo giovane uomo. Alla sua morte, Liberace lascia un'eredità di oltre 110 milioni di dollari che vanno, secondo le sue ultime volontà, all'istituzione di un fondo per i giovani musicisti. I suoi costumi, i suoi pianoforti, le sue macchine di lusso sono conservati nel Liberace Garage a Las Vegas, che ancora oggi può essere visitato per far rivivere da vicino la magia di questo personaggio straordinario, partito dal virtuosismo musicale per diventare l'icona del glamour più sfrenato, pioniere della trasgressione. Molti si sono ispirati a lui, sicuramente Elton John, Madonna, Lady Gaga, ma forse anche gente come David Bowie. Abbiamo raccontato i parecchi colpi d'ala di quest'uomo che ha trasformato il mondo dello spettacolo e anche il mondo della comunicazione televisiva. Ha vissuto tutta la sua vita con una croce da tenere nascosta, perché per lui l'omosessualità non era un motivo di accrescimento della felicità, ma una croce da portare. Se avete delle storie che volete che noi si racconti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito, oppure ai miei, ai nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.